Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Una giornata, care ascoltatrici e cari ascoltatori, bisogna dire all'insegna della segretezza, o forse del suo contrario, che fa andare in parallelo due temi principali di oggi. Da una parte, per quanto riguarda esclusivamente l'Italia, il voto sulla decadenza di Berlusconi da senatore. C'è stata tutto oggi, insomma, una discussione, una lotta all'interno della giunta per il regolamento per decidere la modalità di questo voto che ci sarà in novembre, palese o segreto, segreto o palese. Alla fine hanno pensato di rimandare a domani per decidere definitivamente. Dall'altra, sempre a proposito di segretezza, c'è qualcosa di segreto a livello internazionale? C'è davvero qualcosa che si può tenere chiuso dentro di sé per quanto riguarda dati, informazioni? Parliamo naturalmente soprattutto di questioni che possono avere un interesse di rilevanza nazionale e internazionale, perché continua il Datagate, ma si aggiunge anche il, se vogliamo, una specie di Russia Gate. Adesso uso io questo termine tanto per indicarlo. Avete sentito di Putin, che è accusato dall'Unione Europea di aver distribuito durante l'ultimo G20 a San Pietroburgo dei gadget ai capi di Stato, capi di governo, che in realtà erano poi degli strumenti per spiarli, quindi delle chiavette per i loro PC, dei caricatori di batterie per cellulari. Lui naturalmente nega, ma insomma, per capire, veramente tutti spiano tutti, anche se c'è poco forse da meravigliarsi se Putin avesse a sua volta, come Stati Uniti, interesse a spiare le altre nazioni, considerando anche il suo passato nel KGB. Comunque, di molti argomenti parleremo, ma direi innanzitutto, come sempre nel primo quarto d'ora qui a Effetto Notte, di ricostruire insieme la giornata. Partendo dai titoli, la decadenza da senatore di Berlusconi. Abbiamo detto, c'è stato scontro sul voto, cioè sulla decisione di effettuarlo con voto segreto o voto palese. In conclusione, la giunta per il regolamento, che deve decidere come si voterà, si riconvoca per domani mattina alle 9. E poi la manovra o legge di stabilità. Il ministro dell'economia Saccomanni apre alle detrazioni sulle abitazioni, intanto la Corte dei Conti e Banca Italia sollecitano più equità. Pubblica amministrazione, il Senato approva in terza lettura con 174 sì e 53 no e un astenuto il decreto sulla pubblica amministrazione, che ha norme per la riduzione delle spese, la mobilità e l'efficienza amministrativa. Il decreto è convertito in legge un giorno prima della sua decadenza, quindi ce l'hanno fatta. E il Consiglio dei Ministri vara la norma Salva Roma, via libera al decreto con le misure urgenti per le finanze locali, incluso il cosiddetto appunto Salva Roma, e ci saranno interventi sul debito e 28 milioni e mezzo per la raccolta differenziata, ma si introduce anche la possibilità per il Campidoglio di rincarare dal prossimo 1 gennaio la tassazione cittadina. Il processo per il disastro della Concordia, la Moldava Dominca ammette o ha avuto una relazione col comandante Schettino. La Turchia inaugura il tunnel sotto il Bosforo, 4 minuti pensate per unire Asia e Europa. E partiamo quindi dalla politica italiana, con da una parte i lavori della giunta del Senato per decidere le modalità di voto sulla decadenza di Berlusconi, dall'altra le motivazioni della sentenza che ha interdetto l'ex presidente del Consiglio Berlusconi per 2 anni dai pubblici uffici. Iniziamo dai lavori della giunta. Situazione caotica ma semplice. La partita sul voto per decidere la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore è sui tempi. Il PDL vuole allungarli, il Movimento 5 Stelle vuole accorciarli. Nel frattempo è stallo. Dopo le motivazioni della Corte d'Appello di Milano sulla sentenza Mediaset, il Popolo della Libertà tuona in giunta per le elezioni la sanzione amministrativa. Quindi la retroattività della legge Severino non è applicabile. Così Nitto Palma. La sentenza della Corte d'Appello di Milano sostanzialmente si allinea con molte delle doglianze che erano state avanzate dai colleghi del Popolo della Libertà nella sede della Giunta per le elezioni. Dal PD però Felice Casson si oppone. Si arrampicheranno sugli specchi, faranno di tutto per ritardare la decisione, ma è assolutamente fuori da quello che è scritto nella sentenza della Corte d'Appello. Il Movimento 5 Stelle chiede allora in aula che venga fissato il voto per il 5 novembre, mentre tra i banchi del pubblico siede il leader Beppe Grillo, proposta bocciata dall'aula di Palazzo Madama. Dal canto suo Silvio Berlusconi fa sapere che se decade salta il governo. Immediata la risposta di Matteo Renzi, PD, il Cavaliere non ha i numeri. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palazzo Madama. Come vi dicevo, quindi, il voto per la decisione sulla modalità è stato rimandato a domani. A far discutere, come avete sentito, anche il deposito anzitempo della motivazione della sentenza che ha interdetto Berlusconi per 2 anni dai pubblici uffici. Il suo ruolo politico rende tutto ancora più grave. Rende più grave l'ideazione della frode fiscale, la complessità dei fondi neri creati, la perseveranza nel tempo e per questo l'interdizione dai pubblici uffici non può essere il minimo. Scrivono 10 pagine i giudici della Corte d'Appello di Milano per spiegare perché hanno stabilito per Silvio Berlusconi un divieto di 2 anni ad essere votato, pena accessoria della condanna definitiva nel processo per i diritti TV Mediaset. Gli accertamenti dimostrano la particolare intensità del dolo, scrive la Corte, citando le sentenze che identificano nell'ex premier l'ideatore, l'organizzatore e il fruitore dei vantaggi di un'evasione da 7,3 milioni. In questo quadro il ruolo pubblico di Berlusconi, uno dei principali imprenditori, ma soprattutto si legge uomo politico, aggrava la valutazione della condotta e al contrario di quanto riferito dall'avvocato Ghedini, che aveva parlato del versamento di 11 milioni al fisco, i giudici scrivono che non c'è prova del pagamento da parte di Mediaset del debito tributario, ma solo una proposta di adesione. Nel respingere infine la richiesta della difesa di un ricorso alla Consulta contro la legge Severino, la Corte precisa come quella norma non sia sovrapponibile con l'iter penale. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Ed è di questi istanti una dichiarazione di Berlusconi, un dispaccio di agenzia, dove dice: un accanimento giudiziario incomprensibile e immeritato. Così Berlusconi ha parlato delle motivazioni della sentenza Mediaset depositate oggi, lo ha riferito il vicepresidente della Lombardia Mario Mantovani, che ha incontrato il Cavaliere ad Arcore insieme al vicepresidente di Piemonte e Veneto. Ma restiamo ancora sulla politica in Sicilia, però, dove è previsto il voto di sfiducia al presidente regionale Crocetta. A presentare la mozione di sfiducia agli ex alleati grillini. Adesso cerchiamo di capire se il dibattito è ancora in corso. Comunque, durante il suo intervento Crocetta era apparso piuttosto sereno. Sentiamo giusto un breve stralcio di questo suo discorso. Io non sono fra coloro che mostrano sprezzo nei confronti di una mozione di sfiducia o che danno persino per scontato il risultato nell'aula sottovalutandola e mostrando sprezzo nei confronti anche dei parlamentari che l'hanno promossa. Io sono un uomo che rispetta le istituzioni e proprio perché le rispetta dà il significato che deve avere. Adesso vorrei chiedere a Nino Amadore, che è lì in Sicilia. Nino, a che punto sono? Nel senso, va avanti ancora oltranza questa decisione? Buonasera a tutti. Ciao, Nino. Sta aprendo in questo momento la votazione per appello nominale all'Assemblea regionale. Appena finito di parlare Baldo Gucciardi, che è il capogruppo del PD, la giornata è stata abbastanza lunga e intensa, il dibattito va avanti dalle 12, Crocetta ha parlato per 78 minuti per rispondere a tutte le critiche, alle critiche contenute nella mozione presentata dai grillini, dalla lista Musumeci e da un altro gruppo. E sostanzialmente i numeri danno in questo momento ragione a Crocetta, la mozione di sfiducia non dovrebbe passare. Vedremo fra qualche minuto come andrà a finire, insomma, aspettiamo la votazione. Certo, grazie Nino Amadore intanto e buon lavoro. E poi vediamo naturalmente se riusciamo anche a raggiungere direttamente il presidente della regione Crocetta. Vediamo, naturalmente continua a essere sempre in primo piano la legge di stabilità e quella di oggi è stata anche in questo caso una giornata lunga di audizioni importanti. È l'ultima audizione della giornata quella del ministro dell'economia Saccomanni e allora il responsabile del tesoro, prima di approfondire i temi della legge di stabilità, si sofferma sul sistema paese. Ci stiamo avviando verso una graduale ripresa, fa capire il responsabile del tesoro. Dopo 8 trimestri di contrazione, gli indicatori congiunturali disponibili segnalano che l'attività economica si è finalmente stabilizzata avviandosi verso una graduale ripresa. Quanto al PIL, da -1,8% di quest'anno, secondo Saccomanni si potrebbe arrivare ad un +1% nel 2014. economici. Attenzione ai conti pubblici, avverte il ministro. Il disavanzo strutturale deve tendere verso il pareggio, il peso del debito deve ridursi, il capitolo cuneo fiscale quindi. È evidente che non ci sono soluzioni semplici per reperire ulteriori risorse per concedere sgravi fiscali più ampi. Saccomanni difende anche il passaggio alla nuova service tax e spiega la TASI vale meno di IMU più TARES e comunque non escludo si debba tornare alle detrazioni. Critiche la nuova tassazione sugli immobili della Corte dei Conti, il presidente Squitieri. Crea il presupposto di aumenti di prelievo da parte degli enti locali con aliquota IMU inferiore al massimo previsto dalla legge. Servivano più risorse sul cuneo fiscale, dice Banca Italia il vice direttore generale Signorini. Le misure rappresentano quindi un primo passo di dimensione limitata per i vincoli di bilancio. No al ritorno dell'IMU, dice intanto Berlusconi, i tagli al cuneo vadano alle fasce più deboli, commenta Epifani. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi parleremo anche dell'allarme povertà tra un po'. Intanto l'Istat appunto ha diffuso, sentiamo prima il servizio, poi avremo la sociologa Chiara Sarceno in diretta, ha diffuso proprio oggi dati preoccupanti sulla povertà. 4.800.000, tanti sono i poveri assoluti in Italia, stando alle ultime rilevazioni Istat che risalgono al 2012. Nel 2007 erano 2.400.000, in 5 anni dunque sono raddoppiati. L'amara fotografia è stata presentata davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato dal presidente dell'Istat, Antonio Golini. La recessione, ha detto, ha determinato gravi conseguenze sulla diffusione e sull'intensità del disagio economico nel nostro paese. Quasi la metà dei poveri assoluti risiede nel Mezzogiorno, di questi oltre 1.000.000 sono minori. Sempre secondo l'Istat, nella prima metà del 2013 il 17% delle famiglie ha diminuito la quantità di generi alimentari acquistati e scelto prodotti di qualità inferiore, l'1,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2012 e quasi il 5% in più rispetto ai primi sei mesi del 2011. Infine l'Istat rileva come siano le famiglie più ricche a beneficiare maggiormente degli sconti sul cuneo fiscale perché hanno più occupati, dato il maggior numero di occupati per famiglia, spiega una nota dell'Istituto di Statistica. Sono le famiglie dei due quinti più alti a trarre maggiori vantaggi monetari in valore assoluto. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E nel frattempo il risparmio si è assottigliato sotto i colpi della crisi, anche se negli ultimi mesi è tornato a crescere timidamente. Questo lo rivela la consueta indagine condotta da Acri e Ipsos in occasione della giornata mondiale del risparmio che si celebra domani. Siano stati licenziamenti, cali delle entrate o più in generale problemi col lavoro, in Italia una famiglia su tre quest'anno è stata costretta a fare i conti in modo diretto con la crisi, per una su quattro il tenore di vita è peggiorato in modo serio. L'ultima foto di un paese ancora in difficoltà è quella che arriva dall'indagine sui risparmi realizzata dall'Ipsos per conto dell'Acri, l'associazione delle fondazioni e delle casse di risparmio. Un rapporto che a sorpresa evidenzia anche un timido aumento delle famiglie che quest'anno sono comunque riuscite a mettere da parte qualcosa, sono passate dal 28 al 29%, un dato solo in apparente contraddizione con gli altri, spiega il presidente dell'Acri Guzzetti. In realtà la contraddizione non c'è, queste famiglie che sono riuscite ad incrementare il loro risparmio lo hanno fatto non destinando il proprio reddito a consumi che invece avrebbero potuto acquisire. Per risparmiare quindi si tende a consumare di meno. Per quanto riguarda gli investimenti è confermata la disaffezione degli italiani verso il mattone, mentre fra i prodotti finanziari le famiglie preferiscono fondi comuni e libretti di investimento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ci sono brutte notizie che arrivano da Taranto per quanto riguarda l'occupazione, dove il gruppo Marcegaglia chiuderà dal 31 dicembre il suo stabilimento lì a Taranto, chiusura licenziando quindi i 140 dipendenti, un'ennesima mazzata per questo territorio, sottolineano i sindacati. Andiamo a vedere anche come si è comportata la borsa oggi, dove Telecom, Saipem e i titoli delle banche hanno trainato la volata oggi di Piazza Affari, che ha chiuso con un più 2,27% tra i titoli. Telecom è stata maglia rosa nel giorno dell'incontro tra il numero uno di Telefonica Alierta e il presidente del Consiglio Letta. Il nostro impegno è che resti italiana, manterremo l'occupazione, così ha garantito il presidente di Telefonica. E dicevamo già dai titoli, è sempre forte la tensione internazionale sullo scandalo Datagate, mentre sul fronte appunto internazionale la Russia smentisce un suo coinvolgimento, cioè la vicenda dei gadget, resta imbarazzata e in silenzio Bruxelles. E in Italia c'è stato l'intervento del presidente del Consiglio Letta. Enrico Letta vuole chiarezza sullo scandalo Datagate e sulle rivelazioni circa il tentativo russo di intercettare i leader mondiali all'ultimo G20. Il premier, riferisce una nota di Palazzo Chigi, ha dato mandato al sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi Marco Minniti di convocare per giovedì il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica. Sul caso NSA Letta sarà sentito dal Copasir la prossima settimana. Al Copasir abbiamo riferito tutto quello che è stato fatto, ha dichiarato lo stesso Minniti. I servizi di sicurezza, ha aggiunto, non nascondono le mani nella marmellata. Il sottosegretario ha assicurato la massima lealtà e correttezza dell'intelligence italiana, parlando di momento difficile per i servizi e di problema evidente con gli Stati Uniti. Abbiamo chiesto ai nostri alleati americani come stanno le cose, ha poi precisato, aggiungendo: abbiamo anche un'autonoma capacità di verifica di quello che ci viene detto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero. È costato 3 miliardi di euro e la stampa turca l'ha definito il cantiere del secolo. Si tratta del tunnel ferroviario realizzato a Istanbul sotto il Bosforo, però di questo parleremo ampiamente dopo con un ospite, ci facciamo raccontare i dettagli, un po' di curiosità anche sulla Turchia che a quanto pare ha grandi ambizioni. Chiudiamo con il calcio, con la Roma a punteggio pieno e saldamente in testa alla classifica. La Serie A si appresta a vivere la decima giornata. Ad aprire il turno infrasettimanale è l'Inter che a Bergamo affronta l'Atalanta. Per adesso è avanti l'Inter per 1-0 contro l'Atalanta. Domani toccherà le inseguitrici della Roma, Juventus e Napoli, distanti 5 punti dai giallorossi. Giovedì chiude la capolista che all'Olimpico ospita il Chievo. E chiudiamo anche qui questa prima parte dopo questa ricostruzione della giornata. Poi varie storie, vari approfondimenti con gli ospiti in diretta. Adesso sentiamo gli aggiornamenti per chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vi ricordo che c'è anche la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Vi chiedo per esempio se stasera, al di là di come domani decideranno sulle modalità per votare la decadenza su Berlusconi, voi ritenete che sia più giusto il voto palese o il voto segreto? C'è la pagina Effetto Notte di Facebook, Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Ma adesso, prima di passare alla prima ospite, vi ricordo i titoli dei fatti principali. Quello appunto che riguarda la decadenza da senatore di Berlusconi, oggi c'è stato scontro sul voto, sulla decisione di effettuarlo con voto segreto o palese, e alla fine si riconvoca la giunta per il regolamento per domani mattina alle 9. La manovra o legge di stabilità, il ministro dell'economia Saccomanni apre alle detrazioni sulle abitazioni, la Corte dei Conti e Banca Italia sollecitano più equità. Processo per il disastro della Concordia, la Moldava domenica ammette o ha avuto una relazione con Schettino. La Turchia inaugura il tunnel sotto il Bosforo, 4 minuti per unire Asia e Europa. E intanto c'è il turno infrasettimanale del campionato, Atalanta-Inter, e sono al pareggio in questo momento, 1-1. E direi di sentire un po' di Crozza Ballarò. Dal culo. Cioè io dico... sulla parola giusta, siamo più finiti. Se tu vuoi salvare Berlusconi, sei padronissimo. Certo, vuole anche dire che Berlusconi è padronissimo di te. Ma va bene, è una scelta, dillo, perché vuoi che rimanga segreto? L'unico voto segreto dovrebbe essere il nostro, quando decidiamo chi eleggere. Da lì in poi dovrebbe essere tutto palese. È come se tu chiamassi un idraulico per una perdita e lui ti dicesse: le dispiace bendarsi, così attacco a lavorare. E no, fammi vedere cosa fai. È strano, in questo paese c'è sempre qualcosa di palese e qualcosa di segreto. Siamo il bel palese. Che si debbano pagare le tasse è palese. Come usano i nostri soldi? Segreto. Che a Ustica sia stato un missile è palese. Perché ce lo dicano 30 anni dopo? Segreto. Che un attacco in Italia sia gratis è palese. L'anno in cui la puoi fare però è segreto. Che un senatore condannato si debba dimettere è palese, cazzo, perché ora forse ci dobbiamo beccare pure sua figlia, è segreto. Vabbè. Piuttosto efficace, al di là di come la si pensi, in Crozza. E adesso, dicevo, partiamo con il primo argomento e la prima ospite. Chiara Saraceno. Buonasera. Buonasera Chiara, sociologa della famiglia, docente per tanti anni all'Università di Torino e di Berlino. Questi dati Istat, in realtà già giorni fa c'era stato questo allarme, però oggi c'è stata l'audizione davanti alla Commissione Bilancio di Camera e Senato del presidente dell'Istat, Antonino Golini, che ha riconfermato questo stato di assoluta emergenza, cioè dal 2007 al 2012 in Italia il numero di individui in povertà assoluta è raddoppiato, passando da 2,4 a 4,8 milioni. Allora c'era, l'abbiamo sentito anche nella prima parte di questa puntata, il ministro Saccomanni, ministro dell'economia, che dice c'è una graduale ripresa. Quando si va fuori a mangiare la pizza, qualcuno commenta, insomma, strano, ma è pienissimo il ristorante, è pienissima la pizzeria, ma allora davvero c'è la crisi, davvero ci sono i poveri, ci sono davvero, Chiara Saraceno? Certo che ci sono e non vanno in pizzeria, voglio dire, siamo un paese con di oltre 50 milioni di abitanti e i poveri sono solo quasi 6 milioni, ecco, quelli non vanno in pizzeria. E quindi questa cosa delle pizzerie bisognerebbe smettere di dire, il problema è che la crisi continua, che dicano periodicamente ogni sei mesi che si vede la luce in fondo al tunnel, le famiglie per un po' ci hanno creduto che ci fosse la luce in fondo al tunnel e quindi hanno mantenuto il tenore di vita, intanto intaccando i risparmi, non risparmiando più, eccetera. Con la crisi che ha continuato non ce l'hanno fatta più, hanno smesso di risparmiare, ma soprattutto non hanno più riserve su cui contare. Quindi emerge chiarissimamente che c'è un numero crescente, quasi 6 milioni appunto, di persone che non riesce a consumare neppure un pacchetto, chiamiamo così, di beni essenziali in termini di abitazione, consumi alimentari. Infatti, scusa Chiara, leggevo in questi dati sempre forniti dall'Istat che anche i consumi sono in picchiata complessivamente. La quota di famiglie che ha ridotto qualità e quantità dei generi alimentari acquistati aumenta dal 51,5% del primo semestre del 2011 al 65% del primo semestre 2013, concentrata soprattutto nel Mezzogiorno, tanto per cambiare. Il guaio è che la crisi che ha colpito tutto il paese e un po' molte fasce sociali, però è stata particolarmente forte nelle zone più vulnerabili già da prima del paese, che è il Mezzogiorno, che quindi si sta allontanando ulteriormente dal resto del paese come tenore di vita, quindi come qualità complessiva, perché un conto è ridurre i propri consumi, ridurre il voluttuario, prendere cose di qualità inferiore, un conto è non riuscire a scaldarsi adeguatamente, non riuscire a nutrire adeguatamente i propri figli, non riuscire a mandare dal dentista quando è necessario se stessi o i propri figli e così via. Questa è la povertà dura con cui dobbiamo fare i conti, e purtroppo devo dire che in questa legge di stabilità non c'è neppure traccia che si sia preso in conto questo fenomeno come un'emergenza importante. Non vedo forze politiche, certo il ministro Giovannini aveva una sua proposta che però è stata cassata dal governo, è stata cassata dalle parti sociali. E questo lo trovo sconvolgente, perché sono gli ultimi degli ultimi per i quali il cuneo fiscale, la riduzione del cuneo fiscale non servirà a nulla, perché infatti, sono più incapienti. Chiara, vado a prendere infatti anche dati su questo, a parte Corte dei Conti e Banca Italia che lamentano che è sempre lontano l'ideale di equità in Italia, e poi sarebbero circa 25 milioni i soggetti che non beneficeranno del taglio del cuneo fiscale previsto dalla legge di stabilità. Perché è dedicato solo, mi sembra, almeno nella bozza, ai lavoratori dipendenti. Sì, quindi sono esclusi i lavoratori autonomi, incapienti e pensionati. I lavoratori poveri non sono tutti dei ricchi evasori fiscali, voglio dire. E soprattutto gli incapienti, chi sono gli incapienti? Coloro che hanno un reddito così basso che non è neppure tassabile, e quindi da nessuna deduzione può modificare la loro situazione. Questo è un peccato, come dire, originario grandissima parte delle politiche fiscali italiane quando vogliono fare ridistribuzione basata su utilizzando il sistema fiscale, perché gli incapienti rimangono sempre col cerino in mano, che non gli viene mai nulla, e sono quelli che avrebbero più bisogno di una iniziativa redistributiva. Vedremo, Chiara Saraceno, poi questo percorso della legge di stabilità come ne uscirà dall'iter parlamentare con i vari emendamenti. Sì, confesso però che sono piuttosto pessimista, perché vedo che le parti sociali, i vari interlocutori vogliono spostare, ma anche legittimamente, più sui lavoratori o sui lavoratori persone, ma i poveri continuano a rimanere fuori dalla gente, e questo credo che sia intollerabile, soprattutto visto questi numeri e soprattutto visto che tra i poveri c'è una sovrarappresentazione di minori, quindi di coloro di cui poi ci stupiamo che vadano a ingrossare i cosiddetti NEET, quelli che sono né lavorano né studiano, sia dal mercato del lavoro che della formazione. Una quota della generazione di adulti prossima è così. Non è oggetto di preoccupazione. Chiara Saraceno, io ti ringrazio intanto e buona serata. Ciao Chiara. E alziamo ancora un pochino Crozza prima che finisca Ballarò. E sono volate fra lui e Napolitano parole pesanti. Sta parlando di Grillo, è stato detto anziano, furbo e scaltro. Sì, parla di lui. Io però non ho seguito bene. Ma chi l'ha detto a chi? Boh, anziano, furbo e scaltro. La conventina. Ma per Crozza anche Grillo potrebbe essere un anziano furbo e scaltro, ha superato i 60 da un po', poi dipende anche da, insomma, a che punto si diventa anziani e quando invece non lo si è. Intanto, prima di fare questa prima pausa, volevo leggere alcuni vostri commenti sulla pagina di Effetto Notte trattino Roberta Giordano, a proposito del voto palese o segreto. Che cosa ne pensate sulla decadenza di Berlusconi? Rita scrive: decadenza con voto palese. Maurizio: il Movimento 5 Stelle chiede di votare entro il 5 novembre. PD, Menoelle, PDL che fanno? Chiedono che la discussione si farà più avanti a tempo comodo loro, e qui ci vuole, mi spiace dire, le armi, rivoluzione, rivoluzione, anche se abbiamo detto che si riaggiorna a domani la riunione. Emilio dice: deve essere palese. Domenico: a questo punto, dopo tutto questo teatrino, va bene tutto, purché mettano al voto la decadenza, in altri paesi si sarebbe già votato da tempo. Dora scrive: con questa gente una bella caduta sotto gli occhi di tutti. Massimo: in un paese civile governato da persone prevalentemente oneste, propenderei, dice, per il voto segreto, ma siamo in Italia, quindi mi aspetto qualsiasi porcheria, di conseguenza sono per il voto palese. Anche Elena: per il voto palese. E palesemente vi annuncio che c'è la pubblicità, però ritorniamo proprio tra pochi istanti con altri argomenti e altri ospiti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Sto vedendo a Ballarò Gaetano Quagliarello, ministro per le riforme costituzionali del PDL. Sentiamo che cosa sta dicendo. Vabbè. Di cosa sta. E ora appunto gli anni sono due. Questa è l'ultima vicenda di una sentenza che io devo dire, conosco un po' le carte, trovo francamente una sentenza molto grave dal punto di vista della sentenza Mediaset. Parlando della sentenza Mediaset. Sì, quello che voglio dire Gaetano è Quagliarello. Che Berlusconi, se non avesse fatto quell'errore la Corte d'Appello, sarebbe già decaduto. Cioè Berlusconi decade per la interdizione e decade comunque per la sentenza. Poi c'è un'altra vicenda, che è quella che riguarda la legge Severino, che diciamo è una decadenza ulteriore. Ce ne sono due. Cioè Berlusconi ha una decadenza di 2 anni che gli viene dalla sentenza, mi sì. permetta di semplificare, è una decadenza di 6 che gli viene dalla legge Severino. Sì. E c'è qua già una grande. E questo la dice lunga su quale potrebbe essere il risultato, ma insomma staremo a vedere. E vi ricordo allora i titoli, diciamo appunto la decadenza da senatore di Berlusconi. Oggi c'è stato un dibattimento piuttosto acceso, uno scontro anzi sul voto, sulle modalità di decisione di come effettuarlo con voto segreto o voto palese. Si riconvoca alla giunta per il regolamento per domani mattina alle 9. La legge di stabilità, il ministro dell'economia Saccomanni apre alle detrazioni sulle abitazioni. Intanto la Corte dei Conti e Banca Italia, come dicevamo, sollecitano più equità in Italia. pubblica amministrazione. Il Senato approva in terza lettura il decreto sulla pubblica amministrazione che ha norme per la riduzione delle spese, la mobilità e l'efficienza amministrativa. Il decreto è stato convertito in legge proprio un giorno prima della sua decadenza. Processo per il disastro della Concordia. La Moldava Dominca ammette: ho avuto una relazione con Schettino. La Turchia inaugura il tunnel sotto il Bosforo, 4 minuti per unire Asia e Europa. Tra pochissimo ne parleremo. Ma intanto vorrei sentire Vittorio Nino Amadore del Sole 24 Ore, che è in Sicilia e ha seguito il voto che c'è stato per la mozione di sfiducia presentata dai grillini nei confronti del presidente della regione Rosario Crocetta. Come è andata? Voto definitivo, risultato definitivo, Nino? Risultato definitivo, sì, la mozione è stata respinta, 46 contro la mozione di sfiducia e 31 a favore su 77 deputati presenti su 90, dunque per Crocetta è un ottimo risultato politico, anche se lui, intervenendo subito dopo la votazione, ha detto: per me questa resta una pagina dolorosa della nostra regione. Questo in sintesi possiamo dire, e poi ha rilanciato su tutti i temi e su tutti i disegni di legge che sono in attesa di essere discussi, a partire dall'assestamento di bilancio. Proprio oggi i comuni avevano posto il problema dicendo che non era il caso di impelagarsi in discussioni sulla mozione, perché ci sono problemi concreti e reali che vanno affrontati immediatamente. Tra l'altro non è una situazione facile quella di Crocetta, anche perché ha questa giunta in realtà di minoranza con l'appoggio di PD UDC, ma già lui ha un conflitto forte anche con il PD, poi ci sono i grillini che in parte lo appoggiavano in modo alternato, no? A seconda dei temi, delle questioni, poi invece adesso gli hanno mosso la mozione di sfiducia, quindi non so poi quanto sarà facile, gli auguriamo naturalmente buon lavoro. Eh sì, perché con i grillini a questo punto, diciamo, la partita è completamente chiusa, non ci sarà alcun modo di recuperare lo scontro con Cancelleri, che poi è il leader in qualche modo all'ARS del gruppo di Beppe Grillo. Qui a effetto notte ieri, sì. È stato molto forte. Sì, ora c'è una situazione fluida, chiamiamola così, una situazione che va ricostruita. I voti li ha avuti, bisogna capire chi gli ha dato i voti e che cosa ci aspetta nell'inverno, che cosa ci prepara l'inverno. Vediamo se è un inverno caldo, come si dice di solito, dell'autunno per Crocetta. Grazie, sì. Nino Amadore. Ciao. Buonasera. Nino. Ciao. Ciao, ciao. E adesso invece vi voglio parlare con Vittorio Darold, sempre del Sole 24 Ore. Ciao Vittorio. Ciao, tutto bene, probabilmente anche per la Turchia, che per celebrare i 90 anni dalla fondazione della Repubblica, creata, pensate, il 29 ottobre del 1923 dal famoso Atatürk, il padre della patria turca, proprio sulle rovine dell'impero ottomano, hanno inaugurato questo Marmaray, non so come si pronuncia, questo tunnel sotto il Bosforo, insomma. Vittorio. Sì, esattamente, Marmaray è appunto un rail, un treno sotto il mare di Marmara, e quindi hanno fatto questo acronimo, ed è una cosa fantastica. Sono un chilometro e mezzo sotto il tunnel, quindi una manica sul Bosforo in pratica. Sì, come il tunnel della Manica, ecco, una specie di cosa. Questo è 14, totalmente 14 chilometri e 1,4, dicevi, proprio sotto il mare. Esattamente, che in 4 minuti ti congiungerà la parte europea con la parte asiatica. Tieni conto che Istanbul è una città, una megalopoli di 15 milioni di abitanti, quindi la metà abitano in Asia, ma il 90% lavora in Europa, quindi ci sono 1,5 milioni di persone, quasi due, che ogni giorno dovrebbe prendere questo diciamo, questa metropolitana sotterranea. Inoltre ci sono due grandi ponti e poi ci sono i ferry boat, quindi è una continua migrazione tra la parte asiatica, dove i prezzi delle case sono molto bassi, e invece l'Europa, dove ci sono gli uffici, gli hotel, tutta la parte più dinamica. Quasi un quinto, se non un quarto, del PIL turco viene proprio prodotto a Istanbul. Quindi i record sono vari di questo tunnel, perché è il primo al mondo a collegare due continenti, abbiamo detto Asia e Europa, poi la galleria più profonda del mondo sott'acqua, ma questa è un'infrastruttura che è una specie di sogno, no? di Erdogan, del primo ministro turco, che però ne ha altri nel cassetto. Sì, vero, esattamente. La cosa fantastica è che oltre ad aver fatto quest'opera incredibile dal punto di vista tecnico, quindi realizza un sogno che era da 150 anni, addirittura se ne parlava quando c'erano ancora i sultani, e Erdogan sta cercando di dare delle infrastrutture, di modernizzare il paese, e sta proponendosi di dare un terzo ponte sul Bosforo, che tra parentesi costruirà proprio l'italiana Astaldi. Vuole fare un terzo mega aeroporto che andrà sul Mar Nero, che vuole addirittura arrivare nel giro di 10 anni a diventare il più grande aeroporto del mondo, cioè con 150 milioni di passeggeri all'anno. Vuole poi fare una serie di grandi ospedali, tra cui un ospedale pilota che si chiamerà Etlik, che avrà 20.000 addetti e in grado di fare 50.000 visite al giorno, quindi vuol diventare un hub sanitario per tutto il Medio Oriente. E poi sta proponendo di fare un canale che chiamerà Istanbul, che sarà parallelo al Bosforo e sarà lungo 50 chilometri, quindi più lungo del canale di Suez. Quindi una serie di strutture per ammodernare un paese e proiettarlo proprio verso l'Europa. Vediamo se appunto prima o poi ci entrerà. Però tra l'altro ha collaborato a questo tunnel sotto il Bosforo inaugurato oggi il Giappone, no? Era presente anche il primo ministro Shinzo Abe, perché ha fornito tecnologie e finanziamenti. Però Vittorio D'Arold, ci sono anche voci critiche rispetto a queste infrastrutture faraoniche, no? Parlano di problemi di sicurezza, per esempio denunciano la speculazione immobiliare. I giovani che sono scesi in piazza giugno scorso per protestare contro Erdogan denunciano proprio la speculazione immobiliare di faccendieri vicino al potere, la distruzione della natura, dell'ambiente. Sì, si parla addirittura di quasi 1 milione di alberi tagliati. Questo è un disastro, perché molto spesso per fare velocemente queste infrastrutture non si guarda molto per il sottile, e quindi non viene tenuta nella giusta considerazione appunto tutta una serie di rispetto dell'ambiente, che invece in Europa c'è maggiore sensibilità, maggiore attenzione. Il caso di Gezi Park, proprio vi ricorderete, a giugno, è nato proprio dalla difesa di un piccolo parco. Sì, delle proteste dei giovani, sì. Proprio della vecchia Istanbul, è proprio su una cosa così marginale, perché è un parco veramente piccolo, esiguo, ma è diventato il simbolo del rispetto non solo dell'ambiente, ma poi più in generale dei diritti della popolazione locale che vuole appunto avere dire la propria, essere consultata, avere quindi bisogno di essere. E questo è veramente il problema di fondo della Turchia, cioè che questa leadership sia un po' troppo autoritaria, quindi riesce a fare grandi opere in tempi rapidi, ma a discapito della consultazione, della partecipazione, del rispetto dell'ambiente e più in generale anche della volontà dei cittadini coinvolti. E quindi, a parte questo, Vittorio D'Arold, quindi di questa leadership autoritaria, della mancanza di partecipazione e coinvolgimento della popolazione, ma i soldi la Turchia per fare tutte queste robe dove li trova in questo momento di crisi generale? Allora, la Turchia addirittura ha previsto in 10 anni di fare investimenti per 250 miliardi dollari, che è una cifra enorme, ma il problema è che fino adesso ha sempre avuto investimenti dal stranieri, che puntano, scommettono sulla crescita, che è una crescita a livelli cinesi, per noi abituati europei, quindi a questi magri e scarsi decimali, e cresce impetuosamente. Quindi chi ha investito in Turchia ha sempre avuto un ritorno molto interessante. La scommessa è che questo meccanismo continui. In questo modo però la Turchia, grazie anche alla svalutazione della lira e all'arrivo dei capitali, sta effettivamente creando una posizione, un'economia keynesiana perfetta, quindi ci sono lo Stato che fa investimenti, infrastrutture e sta trascinando l'economia. L'unico problema, come sempre, arriva dall'America. Se la Federal Reserve decide di cambiare politica monetaria, ecco, a quel punto allora questi capitali stranieri in cerca sempre di investimenti potrebbero tornare rapidamente, scappare dalla Turchia, e allora lì nascerebbe il problema, un problema comune però ad altri mercati emergenti. Grazie Vittorio D'Arold. Grazie, così ci hai raccontato di queste aspirazioni, di queste prospettive piuttosto, non direi futuristiche, molto presenti della Turchia, cose già create, altre che vedremo appunto se troveranno poi un riscontro concreto, visto che sono così, così ambiziose. Intanto, prima di lasciarci per qualche istante, abbiamo ancora gli aggiornamenti per chi viaggia, volevo leggere ancora qualche commento sulla pagina di Effetto Notte su Facebook, Effetto Notte trattino Roberta Giordano. C'è l'Ancice che dice: insistere sul voto palese o no è un insulto alla politica italiana, è come dubitare della coscienza e della responsabilità dei parlamentari italiani che hanno il dovere di applicare una legge chiara e semplice. Immagino che quindi si riferisca al fatto che il regolamento fino ad ora parla di voto segreto, anche se ci sono stati dei casi comunque nel passato dove c'è stato il voto palese. Poi vediamo insomma domani che cosa decideranno. E poi c'è anche un commento molto critico di Ubalda e Alessandra: noi italiani siamo una massa di pecoroni che ancora crediamo alla politica, e insomma via dicendo. Poi le potete leggere direttamente sulla pagina di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Prima di procedere con i prossimi ospiti, vi ricordo, come sempre dopo le pause, i titoli dei fatti principali. Scontro sul voto per decidere le modalità per la decadenza da senatore di Berlusconi, per come votare, se un voto segreto o voto palese. In conclusione la giunta per il regolamento, che deve decidere come si voterà, si riconvoca per domani mattina alle 9. E intanto in Sicilia l'Assemblea regionale respinge la sfiducia a Crocetta, che era stata sollecitata dal Movimento 5 Stelle. Crocetta dice comunque insomma una pagina dolorosa. La legge di stabilità, il ministro dell'economia Saccomanni apre le detrazioni sulle abitazioni, la Corte dei Conti e Banca Italia però nel frattempo sollecitano più equità. Processo per il disastro della Concordia, la Moldava Dominica ammette o ha avuto una relazione con il comandante Schettino. Poi ne abbiamo parlato poco fa, la Turchia inaugura il tunnel sotto il Bosforo, 4 minuti per unire due continenti, cioè Asia e Europa. E intanto nel turno infrasettimanale di campionato Atalanta contro Inter, per il momento sono al pareggio 1-1. Questa vita presente è un complicato mestiere che nessuno è mai niente te lo riesce a insegnare, ma basta una nota a cambiare la musica e adesso tocca a me. Ed è con grande piacere che tocca a Red Canzian, piacere mio e spero vostro. Red, Roberta, caro Red Canzian dei Pooh, i tre inossidabili insieme a Roby e Dodi. Red, io quando ti sento sto bene. Tra l'altro oggi esce il vostro cofanetto, non si possono perdere nel modo più assoluto i fan della vostra storica band, la più longeva della storia italiana, tra l'altro. Certo, Red, certo. Si chiama Pooh Box. Oggi è uscito questo cofanetto fantastico. C'è una chiamata sotto, Red Canziano. Tutti questi cellulari super tecnologici che vi fanno 3 chiamate in corrispondenza. Vediamo se riusciamo a recuperarlo nel frattempo. Questa vita presente è un complicato mestiere che nessuno è mai niente. Lo richiamiamo intanto. Abbiamo qui un uomo che in qualche modo è vicino anche ai Puma, ce lo farà scoprire solo in fondo, che è Mauro Meazza, caporedattore centrale del Sole 24 Ore. Buonasera Roberta. Ciao Mauro. Magari ecco fossi vicino ai Puma. Vediamo se abbiamo recuperato Red Canziano. Dopo vediamo, io ti volevo sottoporre la legge di stabilità, che però adesso lasciamo che faccia il suo iter, poi la questione della tassazione sulla casa che sta allarmando. Sì, che è un po' diciamo il mio album, ecco. Io posso presentare quello. Sì, però abbiamo Red? Eccomi, è caduto tutto, non so perché, io giuro che non ho fatto niente di strano. No, per carità, è innocente Red Canzian, lo sappiamo. Poi vorrebbe giustamente parlare oggi del cofanetto del Pooh Box, uscita discografica imperdibile, dicevo. C'è un doppio CD live, un doppio DVD, un doppio CD live col concerto Opera Seconda in Tour, no? Registrato lo scorso luglio a Treviso, Red. Sì, poi c'è un doppio CD con 28 brani dedicati a Valerio Negrini, infatti si chiama Voci per Valerio, che purtroppo vostro paroliere, il 3 gennaio scorso. Paroliere fondatore della band, colui certo, che ha tracciato il linguaggio del gruppo, persona importantissima che purtroppo se n'è andata presto come tutti i grandi, che quando un grande se ne va è sempre troppo presto. E allora i più grandi doppiatori del cinema italiano hanno voluto dedicare questo doppio CD, 28 testi di Valerio, 28 testi di canzoni famose, storiche con vostre, un sottofondo fatto tipo colonna sonora, con i rumori, con le ambientazioni, con le musiche che richiamano la musica originale della canzone, e loro che recitano questi 28 mini film con queste voci, e senti da Robert De Niro a Leonardo DiCaprio, a Johnny Depp, a Meryl Streep, queste voci pazzesche del nostro cinema. Dei doppiatori di questi attori, naturalmente, non Meryl Streep in inglese, esatto. No? esatto, sì. Però per noi, capito, nell'immaginario sono queste voci. Certo, poi voi, essendo internazionali, tra l'altro il vostro tour continua, no? Andate a parte in Italia, in Canada, in Stati Uniti, ma quando siete per esempio negli Stati Uniti, Re de Canzian, che canzoni cantate in particolare? Quali piacciono? Cantate in italiano, naturalmente. Cantiamo esattamente quello che cantiamo in Italia, perché ormai con internet, col web, si è molto uniformato anche il gusto, per cui siamo arrivati in Giappone l'anno scorso, e questi sapevano dove comincia il sole l'ultimo album meglio che in Italia, cioè non hanno più limiti, non ci sono più confini, e questo è molto bello. Puoi cantare in italiano, puoi cantare come vuoi tu nella tua lingua e dare la giusta immagine di te, insomma. Ma c'è qualche canzone preferita quando siete da quelle parti, che dicono cantateci questa canzone? Beh, no? Insomma, le stesse dell'Italia, Roberta. I gusti quando sono... tu canti Pensiero, che tornerà la musica. A Sofia, Uomini Soli ha avuto 5 minuti di applausi, a Tel Aviv ha avuto 10 minuti di applausi. Si sentono particolarmente soli quegli uomini, evidentemente. Senti, perché ha fatto Sanremo. Sono universali. Da quelle parti vedono Sanremo, hai capito? E quindi allora se tu fai... diventa improvvisamente strafamoso da quelle parti un brano se parte. Noi infatti abbiamo fatto pochi Sanremo e siamo meno famosi di Totò Cutugno o di Albano, che l'hanno fatti tanti. Però Red, voi avete deciso adesso di prendervi 2 anni di pausa. Niente proprio di... Non siete andati mica in pensione, no? Non per fare i pigroni, 2 anni di pausa per preparare un degno cinquantennale alla nostra storia. Insomma, noi nel 2016 compiremo 50 anni e dobbiamo fare quindi una stragrande tournée con uno spettacolo pazzesco, con ospiti, con amici, con tutti quelli che in qualche modo hanno attraversato la nostra strada, l'hanno percorsa insieme a noi. Iniziato da bambini, se fate il cinquantennale nel 2016, non posso pensarlo, eravate in fascia praticamente. Senti, Red Canzian, prima di salutarci, ricordare che appunto c'è il vostro Pubox, il vostro cofanetto. Abbiamo detto che dentro c'è anche un grande libro di 200 pagine con la nostra storia disegnata Pudisegno, da un grande disegnatore, da Gianni D'Angelo. Con la vostra storia disegnata. C'è qui però che scalpita Mauro Meazza, che devi sapere, caporedattore centrale del Sole 24 Ore, che visto che hai citato Pensiero, gli è venuta un'illuminazione. Lui è un esperto di fisco, però è anche piuttosto intonato. Senti un po', no, Red? Grazie Roberta, buonasera, no, Red. Cantala. Ciao. Sì, mi è venuto in mente che siccome dovevo parlare delle modifiche alla legge di stabilità, questo è il motivo per cui sono qui, si poteva fare un non restare chiuso qui, prelievo, però non so se ti piace questa versione posso un po' fiscale. La metrica c'è. Diciamo che il pensiero è un po' più poetico del prelievo. Ecco, aggiustiamo il resto. Allora, Red Canzian, ti abbraccio anche gli altri Pooh. Anch'io, e buona ciao, tournée. Robertina. Ciao Red, a presto. Un bacione. Ciao, un bacio a te. Ciao Red. Ciao. Senza pudore Mauro Meazza, ma ce l'ha fatta, avete sentito che insomma il talento c'è. Mauro, invece, ritornando in questi 2 minuti che ci mancano, di cosa vuoi parlare? Legge stabilità o del pagare col bancomat, invece puntare sui contanti, che era una diatriba anche che c'era nelle ultime ore? Vediamo, allora, rimandando al Sole 24 Ore di domani, che ha come sempre in questi giorni degli approfondimenti molto puntuali sulla legge di stabilità, e non ve li canto perché così sto più stretto nei tempi, ma sapete che potrei farlo a questo punto. Allora, vi dico, quello che sta cambiando è che stanno cercando di rendere meno pesante il prelievo sulla casa, e con una serie di correzioni. Saccomanni non ha escluso anche le detrazioni, potremmo rimettere le detrazioni. Il cuneo fiscale, importante, stanno studiando se abbassare, cioè darlo a redditi con una soglia più bassa in modo che diventi un po' più consistente, perché sappiamo che poca roba, insomma, quello che è stato detto finora, 14 riduce euro a poca al mese. Cosa, esatto. Per quanto riguarda la lotta all'evasione, che è sempre il nostro tormento, tormento. Posizioni, come hai ricordato, opposte. Saccomanni che dice voglio più moneta tracciabile, contanti, carte di credito, meno contante, bancomat, eccetera. Alfano che dice non sono d'accordo, voglio più conflitto di interesse, cioè voglio poter fare detrazioni, scontare gli scontrini, eccetera, eccetera. Le due posizioni alla fine non sono poi così inconciliabili, nel senso che credo che Alfano abbia più di mira i consumi, cioè non deprimiamo i consumi costringendoli in qualche modo, cerchiamo di lasciare mano libera, piuttosto investiamo sull'altra parte. La vedo così, lo spieghiamo domani sul Sole. Abbiamo ancora 5 secondi, mi pare. Abbondiamo. 5 secondi, allora ti posso dire che comunque domani, insieme al Sole 24 Ore, diamo un volume che è un inserto che è come correggere gli errori fiscali. Perché spesso noi ci facciamo un sacco di preoccupazioni. Si può anche sbagliare col fisco, ma ci si può anche correggere. Meno male, ci sentiamo confortati. Grazie, Mauro Meazza. Grazie a voi. Buona serata e buon lavoro. Ci sentiamo dopo.